Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le notizie dall'Europa, notizie che evidentemente si intersecano strettamente con l'attualità internazionale, gli eventi drammatici di Parigi e ancora nelle ultime ore quelli che riguardano Bamako, dunque la capitale del Mali, di cui state sentendo tutti gli aggiornamenti nei nostri giornali radio. E proprio su questi temi oggi è il giorno della riunione, del vertice dei ministri dell'interno e a questo proposito c'è proprio un accordo tra i ministri dell'interno dell'UE per chiedere alla Commissione di presentare una revisione dell'articolo 7,2 del codice di Schengen per rendere di fatto i controlli alle frontiere esterne sistematici anche per i cittadini UE. Parliamo di frontiere esterne, lo ribadiamo, così fonti diplomatiche a margine dei lavori del Consiglio interni che si svolge appunto oggi. La revisione introdurrà l'obbligatorietà rispetto alla semplice possibilità già comunque esistente ma non pienamente attuata. Una discussione sul codice Schengen è prevista anche in sede di Consiglio interni del prossimo 4 dicembre. E ora cambiamo tema. La Commissione europea ha deciso di proseguire sulla strada della procedura di infrazione in merito ai prepensionamenti delle donne nel settore pubblico. Bruxelles contesta la possibilità prevista nell'ordinamento italiano in quanto viola la parità di trattamento tra uomini e donne previsto nei trattati europei. Il capitolo è di quelli già analizzati e già sanzionati da Bruxelles. Parliamo di pensioni e in particolare delle differenze tra uomini e donne. La Commissione europea ha deciso di proseguire la procedura di infrazione aperta nel 2013, inviando a Roma una lettera di messa in mora complementare, nella quale quindi sono state evidenziate altre violazioni. La Commissione contesta il fatto che nel settore pubblico le donne abbiano la possibilità di andare in pensione anticipata rispetto agli uomini. L'Italia ha fatto notare che in seguito al passaggio dal retributivo al contributivo, questo vantaggio viene smorzato dalla conseguente riduzione della pensione. La norma italiana fissa gli anni minimi di contribuzione per ottenere la pensione prima di arrivare all'età massima in 41 anni e 3 mesi per le donne e 42 e 3 mesi per gli uomini. Secondo Bruxelles questo viola l'articolo 157 dei trattati europei che stabilisce la parità di trattamento tra uomini e donne e va anche oltre i margini di manovra lasciati ai paesi. Non ha quindi ancora convinto Bruxelles la spiegazione dell'Italia secondo cui, anche se c'è un'effettiva differenza di un anno tra la possibilità di prepensionamento maschile e femminile, nei fatti non c'è differenza di trattamento, perché le donne che lasciano prima il lavoro rispetto agli uomini riceveranno anche una pensione in proporzione più bassa. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi è la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. Al Parlamento europeo la prossima settimana vota una risoluzione per destinare il doppio delle risorse attuali al diritto all'istruzione di minori, migranti e rifugiati. Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura del Parlamento europeo. Oggi è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e credo che dovremmo avere a cuore due focus in particolare. Il tema della povertà dei minori che si sta aggravando nel mondo ma anche in Europa, in Italia, e dobbiamo su questo invitare tutti i governi europei, come abbiamo fatto, oltre che l'Europa, a dare più risorse per combattere la povertà delle famiglie e dei bambini. E l'altra è quella del diritto all'educazione per i bambini, in particolare i bambini che sono arrivati ormai a migliaia in Italia, in Europa, con questa emergenza umanitaria dai vari paesi, con i conflitti che conosciamo bene, e sappiamo che sono 10.000 solo in Italia i bambini arrivati minori, arrivati soli, e poi ce ne sono però moltissimi ragazzi o minori, sono circa 200.000 quelli che hanno chiesto asilo nell'Unione Europea. Ma quello che noi abbiamo messo a fuoco come tema, che sarà oggetto di una risoluzione in Parlamento Europeo a Strasburgo, è che oltre 400.000 bambini, per esempio siriani, che vivono in Turchia nei campi profughi non hanno avuto nessun tipo di accesso all'educazione, così come sta avvenendo anche in altre forme, diciamo, di accoglienza. Allora noi abbiamo chiesto che il diritto all'educazione e all'assistenza scolastica per questi bambini, anche alla lingua, è uno degli standard di accoglienza che deve essere garantito. Sappiamo che ci sono anche molti insegnanti tra gli stessi profughi adulti, si possono anche utilizzare loro, e credo che si debba assolutamente fare di questo una grande campagna, ma soprattutto vogliamo che almeno sia il doppio dell'investimento attuale negli aiuti umanitari per la parte educativa. E infine il Parlamento greco ha approvato ieri sera il terzo pacchetto di misure economiche necessario per ottenere di fatto lo sblocco dei 12 miliardi da parte dell'Europa. 153 voti a favore, dopo che la coalizione ha espulso due deputati, uno di Siriza e uno dei greci indipendenti. Poco prima si era dimesso Gabriel Sakellaridis, fedelissimo di Tsipras, per la sua riluttanza a sostenere le ultime misure d'austerità. Questo ha ovviamente indebolito la coalizione, che si appresta a votare la riforma del sistema pensionistico, un provvedimento ritenuto indispensabile quanto avversato. Bene, con questo è tutto per l'appuntamento con l'Europa di questa settimana. Naturalmente torneremo insieme a partire da lunedì. Un buon fine settimana a tutti voi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.